Buongiorno da Dario Ricci. In campo contro la Francia col pensiero a Olanda-Romania. L'Italia di Donadoni si gioca tutto stasera alle 20:45 a Zurigo, ma la vittoria con i galletti non basterà se i romeni batteranno a Berna i tulipani già qualificati. Ma che nessuno insinui col CT che magari sarebbe stato il caso di fare una telefonata all'ex compagno Van Basten. Sentite come risponde Donadoni. Credo che sentire Marco Van Basten solo perché adesso c'è la necessità che l'Olanda faccia un risultato positivo sia veramente riduttivo e poco rispettoso. Io mi sentirei così abbastanza offeso quasi nel sentirmi dire una cosa del genere. Non pensiamo alle valigie, abbiamo altri pensieri, abbiamo altre cose su cui focalizzare la nostra attenzione, non certo a preparare le valigie che quando si vogliono preparare ci si mette poco. La Francia, non so in quanti anni non siamo riusciti a vincere nei tempi regolamentari, però a me le statistiche mi interessano poco. Capitan Cannavaro, pure infortunato, veste i panni del trascinatore. L'atmosfera è tranquilla, quella delle grandi occasioni. Non dobbiamo pensare agli altri, ma penso che la cosa più importante non è quella di essere concentrati solo su noi stessi. Durante la partita dobbiamo avere solo un obiettivo, quello comunque di battere una squadra forte come la Francia, composta da grandi campioni e che sicuramente loro penseranno un po' come noi, perché anche loro sono nella stessa situazione, quindi non sarà semplice, però penso ci siamo preparati bene. Sicuramente io penso che noi abbiamo fatto una buonissima partita contro la Romania, abbiamo ritrovato quello spirito di squadra, abbiamo creato tante occasioni, non sono venuti i gol, non è venuta la vittoria, però si è rivisto uno spirito importante e questa è la cosa che interessava penso a tutti quanti. Il neomilanista Zambrotta ci crede nella qualificazione. Stiamo comunque bene, siamo comunque con la concentrazione giusta per affrontare una partita del genere, non è la prima volta che incontriamo la Francia e credo che comunque sarà una bella partita. È una partita che si è ripetuta tantissime volte ultimamente, quindi speriamo di essere noi insomma quelli che vanno avanti in questo europeo. E ieri intanto è toccato alla Germania conquistare il via libera per i quarti. La Germania batte l'Austria e passa ai quarti di finale. Decide la partita un gol di Ballack, una cannonata nel set su punizione che non dà scampo al portiere austriaco. Forse l'unico gesto tecnico davvero notevole in una partita non brutta ma fatta più di corsa che di gioco, più di agonismo che di piedi buoni. L'Austria esce senza drammi dal campo di Vienna. Nel primo tempo spende tutto quello che può inseguendo il sogno della qualificazione. Ci prova ma costruisce mezza occasione da gol in tutto. Espulsi e mandati in castigo, ma in tribuna d'onore, i due allenatori Hickensberger e Löw, perché litigano tra loro. Ora la Germania dovrà affrontare il Portogallo nei quarti di finale. A Klagenfurt, l'altra partita di ieri, quella tra Croazia e Polonia, non offre grandi spunti. La Croazia, già qualificata, vince per 1-0 con gol di Klasnic. Nel prossimo match troverà la Turchia. Luca Veronese, GR24, Il Sole 24 Ore, Zurigo. Seguiremo l'intera giornata di Italia-Francia con collegamenti, approfondimenti e interviste, in particolare alle 14 a tempo di sport speciale europei e poi dalle 22:30 allo speciale serale dedicato proprio a Euro 2008. Buona giornata da Dario Ricci.